La gallina dalle uova d'oro, da Favole, Digène de la Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Dalla seguente favola il costrutto è fatto per coloro che, per troppo volere, perdono tutto. Aveva un certo tale una gallina che faceva ogni giorno un uovo d'oro. Credendo che la bestia peregrina chiudesse in grembo qualche gran tesoro, l'uccise e, aperto il fianco, la sua gallina simile trovò a tutte l'altre che fan l'ovo bianco. Così il suo danno e stesso procacciò. Convien questa lezione a molta gente senza discrezione. Non son gli esempi rari di quei che, per la gola dei denari, della fortuna al gioco perdono il molto e il poco. Fine della favola. La gallina dalle uova d'oro. Questa registrazione è di dominio pubblico.